Ay, ay, ay, yeah. No, no, no, que no eres tú. Dylan, noi stiamo andando un po' a caso, ma vedo che appanza, come si suol dire. Non sappiamo più cosa fare, intanto che aspettiamo il tuo spogliarello, guarda te.